Mix 24 di Giovanni Minoli. I broccoli cinesi, il prezzemolo del Vietnam e il basilico dell'India. Eccolo il podio dei cibi più contaminati contenuti nella blacklist presentata da Coldiretti a Napoli e redatta sulla base delle analisi condotte dall'Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare. Cibi che dalle analisi dell'Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare risultano nocivi alla salute. Tra le sostanze rilevate, micotossine, additivi e coloranti che violano la normativa italiana. Ma è intollerabile che si possano usare prodotti chimici che sono considerati pericolosi come dare una licenza di far male. Buttano quelle cose chimiche. È una cosa che fa bene, no? Ascolta, io sono stufa di svegliarmi la mattina pentendomi di ogni singola cosa che ho mangiato il giorno prima. E allora mangio. Dunque, broccoli della Cina, prezzemolo del Vietnam, basilico dell'India, ma anche fragole, arance dall'Egitto. Sono questi i prodotti in cima alla blacklist dei cibi più contaminati secondo la Coldiretti. E questi dati sono elaborati sulle analisi condotte dall'Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare. Quindi la situazione del cibo che ci arriva in tavola qual è? E quanto o quali ci fanno male? Dottoressa Daniele Brocca, esperta di pesticidi, lei ha partecipato alla ricerca dell'Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare sullo stato di salute del cibo europeo. Ecco, che cosa è emerso come dato più importante? Allora, premesso che io mi occupo di residui di pesticidi negli alimenti, sì, e non di altri rischi. Esattamente. Sì, certo. Quello che è emerso sicuramente è che il cibo in Europa per quanto riguarda i residui di pesticidi è sicuro. Sono in essere dei programmi di controllo del cibo europeo e cibo proveniente da paesi terzi che sono molto confortanti e si tratta di controlli molto ramificati, molto capillari e molto efficaci. Quali sono i prodotti incriminati invece? Ma io non parlerei di incriminazione, dipende piuttosto dalle sostanze attive o dei fitofarmaci residui riscontrati nei singoli campioni di cibo. Ma diciamo, i prodotti che sono stati bocciati, cosa hanno dentro che non va come residui? Dunque, l'EFSA non ha bocciato nessun prodotto, prima di tutto. È vero che esistono magari alcuni dati che potrebbero far pensare alla bocciatura di alcuni cibi provenienti da paesi terzi, ma sì, si tratta di dati limitati a un certo numero di cibi e non rappresentativi per il cibo, per così come viene messo sul mercato europeo. Senta, dottoressa Brocca, ma quali conseguenze possono avere se mangiamo questi cibi che sono messi in crisi? I broccoli cinesi, per esempio? Diciamo che il consumatore non è, la salute del consumatore non è a rischio per quanto riguarda i broccoli cinesi, per esempio. Come le dicevo prima, si tratta di pochissimi campioni che non sono, per quanto riguarda i broccoli cinesi, che non sono rappresentativi per i broccoli consumati in Europa da un italiano. Tra l'altro si tratta di una varietà di broccolo, non quello classico è presente normalmente sul mercato europeo. Ecco, senta, dottoressa Brock, ma allora la Coldiretti ha fatto troppo allarmismo con la sua blacklist? Allora, diciamo che la Coldiretti ha selezionato alcuni dati tra i tanti dati presenti nella relazione annuale dell'EFSA. Cioè, la blacklist l'hanno ricavata loro, insomma, se la sono costruita? Assolutamente sì. Allora sentiamo la Coldiretti, sentiamo cosa dice Roberto Moncalvo, presidente della Coldiretti. Voi in fondo avete lanciato un allarme preciso su alcuni prodotti che provengono dall'estero, soprattutto quelli a basso costo. Però è vero che il 97% dell'ortofrutta in Europa, sostanzialmente, secondo questa ricerca, invece va bene. Cioè, in qualche modo avete un po' montato un caso con la blacklist per avere una visibilità diversa, è così? Noi abbiamo costruito sulla base dei dati dell'EFSA un momento di attenzione sulla sicurezza alimentare di ciò che importiamo. Ma avete il caso l'avete costruito un po', insomma. No, siamo partiti dai dati effettivi, sì, dell'EFSA. Abbiamo voluto costruire sulla base dei dati reali dell'EFSA anche una differenza che c'è, sì, sempre partendo da dati ufficiali, fra ciò che è il rischio che possiamo incorrere quando i prodotti arrivano da paesi terzi e ciò che invece abbiamo come dato certo rispetto alla qualità, ad esempio, dei nostri, ecco, prodotti. Ma quali sono i cibi, scusi, quali sono i cibi più a rischio, secondo lei? Beh, allora, la blacklist parla in modo evidente di quelli che sono i prodotti a maggior rischio, partendo dal broccolo cinese con il 92% dei campioni irregolari, arrivando in coda alla blacklist a prodotti come le fragole o come le arance provenienti dal Marocco, che peraltro entrano nel nostro paese con delle agevolazioni legate agli accordi fra, certo, l'Unione Europea, certo, e quei paesi. Ecco, l'EFSA però dice anche che solo l'1,5% supera nettamente i limiti di legge, mentre il 27,3% dei campioni ha residui di pesticidi ma al di sotto della soglia di legge. Quindi insomma bisogna stare attenti, ma insomma non esagerare neanche. No, bisogna stare attenti ai dati ufficiali dell'EFSA, che sono quelli che noi abbiamo voluto leggere però, e mettere a disposizione. Scusa, dottor Moncalvo, però l'EFSA dice che il 97% degli ortofrutticoli in Europa rientra nei limiti di legge. Questo noi, testualmente. Certo, questo è quello che dice l'EFSA sulla base dei controlli, certo, che l'EFSA fa. Noi, sì, poi sappiamo una cosa, che il nostro paese è quello più controllato dal punto di vista dell'agricoltura, sì, e sulla base dei controlli che il nostro paese fa, e sono i dati dei nostri ministeri che ce lo confermano, il nostro paese è quello, partendo proprio dal dato dei residui chimici nei prodotti agricoli, noi siamo 4 volte sotto la media dei paesi europei, 20 volte sotto la media dei paesi terzi. Quindi questo dato, che di nuovo è un dato ufficiale, ci dà la garanzia della qualità della nostra agricoltura. Quindi lei dice, molto meglio il Made in Italy, però io le chiedo, come mai c'è tanta differenza di prezzo? Ma la differenza di prezzo non è una differenza di prezzo che è una differenza di prezzo, come dire, che si riscontra sempre. Non è sempre detto che il Made in Italy costa di più. Quello che è vero è che il Made in Italy è quello più sicuro che noi possiamo avere. Quello che è vero è che purtroppo ci sono molte realtà anche nel nostro paese che sfruttano l'immagine del Made in Italy e che vendono a caro prezzo prodotti che non hanno al loro interno nemmeno una goccia, nemmeno un chicco di prodotto italiano. Senta, questo è un problema da affrontare, certo, naturalmente, per dare trasparenza ai consumatori, che poi sono liberi di scegliere quello che è meglio. Ma possiamo dire che frutta e verdura che troviamo al supermercato sono buone, o comunque lei dice no, bisogna fare attenzione? Possiamo dire che la frutta e la verdura italiana, sulla base dei dati ufficiali, sono quelle più sicure. Quindi è importante guardare l'etichetta per l'ortofrutta, dove peraltro è obbligatoria quando è fresca. Ma dobbiamo tenere conto che quando un prodotto ortofrutticolo entra nel nostro paese, può andare anche ovviamente verso i canali della lavorazione, della trasformazione dell'ortofrutta. Penso a conserve, marmellate, piuttosto che preparazioni a base di verdura. In quel caso l'origine obbligatoria non c'è e quindi io mi posso trovare prodotti che vengono dai paesi mescolati, paesi, certo, marchiati come Made in Italy. Senta, ancora una cosa, il chilometro zero, cioè un mercato in cui i prodotti vengono commercializzati e venduti grosso modo nella stessa zona di produzione, sta funzionando o no? Il chilometro zero sta funzionando, ma il chilometro zero è la risposta ad una domanda forte che il consumatore fa di conoscenza esatta e completa di ciò che sta acquistando. Quindi è una strada, diciamo, è una strada, ma soprattutto è una risposta molto concreta, molto efficace a una domanda del consumatore. Poi noi sappiamo che il consumatore acquista molto anche nei canali più tradizionali, certo, ed è per questo che per rispondere alla domanda del consumatore dobbiamo mettere in trasparenza tutte le filiere, anche al supermercato. Dunque, se avete delle cose da suggerirci, delle domande da farci, oppure degli sms da scriverci, per telefonare il numero verde è 800 24 00 24, e invece per scrivere sms 349 238 6666. Insomma, Mario, mi sembra da questo studio c'è un po', certamente la Coldiretti ha un po' forzato, sì, la blacklist a fini di visibilità, perché poi questo studio, e però è pur sempre uno studio europeo, quindi è uno studio no, è uno studio che ha un interesse, visto che gli accordi si fanno in Europa. È appena uscita la notizia, il ministro del commercio francese dice che non si farà l'accordo con gli Stati Uniti sul libero scambio. Certo, perché quella è una partita che abbiamo sentito, Obama la premeva molto su questo. Sì, però, e la questione alimentare è uno dei temi. Comunque la notizia buona che viene da questa discussione, da questo inizio di discussione, è che è quello che viene coltivato in Italia, in ogni caso, alla fine è più sano. Allora perché continuiamo a importare? Perché mangiamo perché di più di quello che produciamo? Qua siamo ai fondamenti dell'economia. Sugli alimenti si potrebbero tenere veramente, anzi si tengono veri e propri corsi di laurea. È un problema di prezzo, naturalmente, c'è un problema di domanda, c'è un problema di produzione, di stili di consumo e di distribuzione. Pensa che cosa ha combinato la grande distribuzione, nel bene e nel male, sulle abitudini alimentari degli italiani. Le ha cambiate completamente. Pensa alla variabile prezzo con per il proliferare dei cosiddetti discount, e quindi con un tipo di alimento di qualità diversa rispetto all'altro. Comunque, pensa alla domanda e agli stili di consumo, che cosa hanno immesso nel mercato italiano, le carni provenienti dall'estero, un certo tipo di consumo legato agli stili dei giovani, tanto per dirti, la pubblicità e così via. Cioè, sull'alimentare noi ci giochiamo tutte le carte dell'economia, tutto, praticamente. Diciamo, ci scrive Andrea da Modena, ci dice tutto chiaro per i cibi da evitare, manca un dato, come poi il consumatore sapere chi vende i cibi nella blacklist. Vabbè, beh, ci sono le etichette, sono le etichette tracciabili. Ecco, Petrangelo. Alla fine, però, di quello che si stava dicendo, la garanzia vera su quello che mangiamo, lì torniamo un po' al chilometro zero, ce la diamo da soli. Cioè, ci vuole un salto di informazione e di assunzione di responsabilità su quello che mangiamo. E ci vuole anche la conoscenza. Un tempo, fino a 30 anni fa, qualunque galantuomo era in grado di fare un innesto. E come diceva Mario, gli stili di consumo hanno determinato questa trasformazione. I popoli che abbandonano la terra sono destinati alla decadenza. Il fatto stesso che già i bambini non sappiano distinguere la coscia di pollo dal pollo vero porta a determinare anche il fatto che nessuno più è in grado di percepire l'urgenza economica o commerciale di avere consapevolezza della frutta, del grano, di tutta la catena, la filiera, tutta la filiera che poi porta anche al il fatto che ci hanno trasformato in consumatori. Ci hanno trasformato in consumatori, però, per cui la nostra prospettiva è soltanto il bancone del supermercato. Però c'è anche un altro aspetto che è demografico e sociale, cioè le migrazioni. L'urbanizzazione e lo spostamento della vita nelle metropoli ha distaccato l'uomo dalla campagna. Purtroppo questo è un fenomeno. Pietrangelo ha ragione, però, ma è anche un po' inevitabile. Capisci? Le amministrazioni, diciamo, poi abbiamo una ascoltatrice che ci scrive, e tutte le botteghe gestite dagli stranieri sparse per esempio a Roma senza permessi, senza tracce, naturalmente quello nell'urbanizzazione fanno sì che le regole saltano e capita di tutto. Comunque, sono anche gli unici aperti, però a una certa ora c'è anche da dire questo. Vabbè, perché hanno fame e hanno voglia di lavorare. Mettiamoci d'accordo. L'attenzione però su quello che si mangia naturalmente è un fenomeno che in ogni caso è in crescita. E anche le distinzioni oramai dai vegetariani ai vegani, dai fans della dieta mediterranea, quella solo proteica, il rapporto col cibo a volte può essere portato anche agli estremi. E sentite come fa, cosa dice Grozza. Io mi chiamo Germidi. Di cognome? No, Germidi è il nome. Di cognome faccio soia. Germidi soia. Vabbè. Sono uno chef vegan. Sì, bello. E questo è il mio ristorante. Che si chiama Al Satut. Satut? Satut. Satut de carton. Meraviglioso. La mia. Sì. La mia è una cucina ayurvedica. Sì, bello. Crudista. Quindi lei non cuoce niente? No, non solo non cuocio, ma non lavo nemmeno gli alimenti. Non li lava? Per rispetto alla verdura, che non è detto che abbia voglia di farsi il bagno. Vabbè, naturalmente è uno scherzo di Crozza, però i vegani hanno tutto il loro diritto di esistere, di predicare la loro religione alimentare. Alvaro da Milano, buongiorno. Non c'è. Pronto? Più. Alvaro. Sì, buongiorno. Non Dica. Siamo da Milano, ma da Roma. Ah, da Roma. Ah, vabbè. Hanno fatto un errore della regia. Mi dica. No, dica allora. No, volevo semplicemente dire che io sono un piccolo produttore, quindi produco pochissima roba, sì, perché amo i prodotti genuini e mi servo, e mia moglie si serve in modo particolare dei mercatini a chilometro zero, certo, che secondo me sono molto molto importanti, certo, perché finalmente si riesce detto, a... Sì. Però io qualche volta che l'accompagno noto che sui banchi di questi venditori a chilometro zero ci sono prodotti che a mio avviso, e chiedo e mi informo, che non sono prodotti direttamente da loro. Ma no, sì, l'ho comprato, questo non è nostro, questo l'abbiamo preso. Vabbè, è un arricchimento del bouquet dell'offerta, ecco, diciamo. Sì, ho capito, però se è vero che i chilometri zero devono servire a far vendere, certo, i prodotti che vengono... bisogna controllarlo molto. Esattamente, io quindi su questo suggerisco un controllo più... Una grande attenzione, infatti una nostra ascoltatrice ci dice: nei supermercati italiani solo frutta e verdura made in Italy e tracciati, quindi questo è un altro aspetto importante. Posso dire, è una utopia, perché non soddisferebbe tutta la domanda che c'è, non è possibile. Quindi noi importiamo in questo periodo il melone del Costa Rica, che fai, non lo importi? Perché certo, quello italiano non c'è, tanto per dire. Però lasciando perdere naturalmente gli estremi, ognuno mangia come vuole, predica la religione alimentare che vuole, è importante sottolineare, lo stavamo dicendo, lo diceva il nostro amico al telefono, l'aspetto naturale dei prodotti. Ecco, Alberto Battaglia ha scillato a 70 km da Palermo, tra il Tirreno e il Parco delle Madonie, fa qualcosa di speciale, produce l'albicocco naturale più che biologico, cioè naturale e non biologico. Ma qual è la differenza? La differenza è proprio che il naturale, proprio come dice la parola stessa, è come natura vuole. Quindi gli unici trattamenti che noi facciamo a questa albicocca è soltanto l'utilizzo di acque potabili come irrigazione, perché Cerato è il paese dell'acqua, e concimazioni letamiche. Ecco, ma quindi... perché il biologico può essere trattato e il naturale no, è così? Ma credo che il biologico ormai sia di utilizzo comune, ormai di biologico sì, per me è un business dire biologico per me è trattamento, anche consentito per l'agricoltura biologica, però ci sono dei territori di nicchia dove tramite, grazie alle condizioni ambientali e climatiche, si riesce a produrre nel rispetto della natura. Ecco, senta Battaglia, per questo ci tenete a specificare naturale? Assolutamente sì, è proprio noi, Slow Food proprio a noi ci prende in mano, perché proprio noi siamo naturale, come esatto, natura voluto. Senta Battaglia, quindi voi usate, lo stava dicendo, un vecchio sistema di irrigazione, concimate con letame, chimica niente, così? Assolutamente no, neanche per i frutti, perché l'albicocca di Scillato, essendo una varietà, una cultivar precoce, riesce a sfuggire alla ceratitis capitata, che è la mosca della frutta, per via assolutamente biologica. Naturalmente, insomma. Assolutamente sì, perché la mosca da noi arriva intorno alla fine di giugno, mentre noi già a fine di giugno li avete già raccolto, venduto. Quindi con i parassiti non avete problemi. Assolutamente, no. Ma per tradizione, non è una tecnica che abbiamo innovato. Sì, per sì, tradizione del terreno, è stato sempre così, sì. Ma le marmellate, ad esempio, con cosa le zuccherate? Allora, noi la lavorazione della marmellata... Diciamo che non è una semplice marmellata, perché la nostra io la definirei una crema alla frutta. Va bene, questa crema alla frutta come la zuccherate? Allora, noi abbiamo poco zucchero aggiunto, perché abbiamo un 30% di zuccheri aggiunti su un 65% di frutta utilizzata. E al posto della pectina utilizziamo la farina di semi di carruba, che è un addensante assolutamente naturale e senza glutine, e quindi molto indicata anche per i celiaci. Senta, ma quanto producete? Noi ad oggi la produzione è minimale, perché comunque stiamo recuperando un abbandono che da 20 anni riversa nei terreni del nostro territorio. Ad oggi lei faccia conto che abbiamo circa 800 alberi in tutto il territorio e noi ne gestiamo, a livello di produzione saremo sui 150, però da recuperare. Certo, e dove vendete? L'albicocca fresca, perché comunque è una frutta molto delicata e molto difficile da manipolare, quindi si riesce a vendere a malapena a livello regionale, con i trasformati abbiamo la possibilità di garantire il prodotto non fresco, però comunque tutto l'anno. Senta, ma è un business che funziona? Cioè guadagnate? è una situazione che abbiamo iniziato da poco. Ah. Il motivo che a noi ci spinge a ritornare alla terra è proprio la voglia di non scapparci dal nostro territorio. Ecco, beh, è un territorio molto piccolo, però che ha delle ricchezze. Quindi che è una scelta di coraggio, Battaglia. Assolutamente sì, perché non so dove dovrei andarmene. Io ho finito la laurea e studiavo in agraria, in scienze forestali. Ad oggi mi ritrovo invece in campagna. Ho messo in atto una passione che fino a qualche tempo fa non avevo scoperto. Ecco, Paolo ci scrive: frutta e verdura sono di stagione, se vogliamo mangiare le pesche a Natale, naturalmente certo. Si sa che vengono chissà da dove, no? Di Mario. No, volevo dire una cosa, bella questa cosa della pesca, sì. Della bicocca, però c'è il tema del costo, naturalmente, di produzione e, come hai visto, costano molto di più. E come hai visto, del trasporto, quindi certo. Della distribuzione. Torniamo a quello che stavo dicendo, cioè, sulla questione alimentare si esercitano tutti i fondamentali dell'economia. La cosa interessante è che lui fa un grandissimo sacrificio per fare questa cosa. Allora, se tu ci tieni alla salute, costi di welfare e così via, fai una politica economica che incentiva questo tipo di culture. Senti, di culture che invece non c'è. Non so c'è se Pietrangelo. Infatti, Pietrangelo, vedi che sta Sicilia tanto martoriata, vengono degli esempi invece in cui la qualità viene, come dire, coltivata, amata, incrementata. Però sono poveri. Ritorno alla terra. Sono poveri, però mangiano la bicocca buona. Sono poveri, però, capito il tema? Ogni qual fraccocola, è? Però. Allora, se uno si fa un giro in Sicilia, poi con l'autostrada, sì, quelle lì, quelle che vanno. Permette di vedere. Sì. Beh, anche ieri, per esempio, il giornale offriva la lettura di due pagine sulla crisi. Sì, sì, le arance, eccetera. E allora ci sono delle storie terribili. Io sono ormai un signore di mezza età, però mi ricordo già da bambino che tutte queste arance venivano mandate al macero. Certo. Adesso vengono mandate al macero, dice, per colpa del Maghreb, in realtà, così come per esempio c'è l'incremento o l'intossicazione, diciamo, del mercato dell'olio, la verità è che un danno enorme l'ha procurato tutto quel sistema di vassallaggio imposto attraverso i contributi, per cui l'agricoltura siciliana è stata zoppata perché era molto più comodo sucarsi i contributi piuttosto che lavorare. Questo fa parte perché basterebbe fare un confronto adesso, fotografando dall'alto, per esempio, la Sicilia e le Puglie, che sono simili per struttura, per organizzazione, e vedere la differenza dove c'è. Non c'è una sola briciola di terreno abbandonato in Puglia ed è c'è solo una briciola dove si lavora in Sicilia, ascillato, dove si fanno le albicocche. Ricordo che l'Europa, non so se li dà ancora, aveva contributi per l'espianto di certi vicini. Ma è stata la scelta della politica europea che ha favorito la politica, l'agricoltura, l'agricoltura del nord, Francia, Germania, contro quella del sud. Lidio da Milano, buongiorno. Buongiorno, dottore. Dica. Il mio problema è questo, Dica. Entro in un negozio e trovo dell'aglio bellissimo. Io sono un piccolo orticello, dico me lo prendo e me lo semino. Sì. Metto giù, passa l'inverno, 3 mesi, non nasce niente. Sposto la terra, cosa vado a trovare? Il bulbo, come l'ho messo? Cioè? Praticamente non ho messo, cioè, a questo punto vorrei sapere cosa mi ha dato e se è commestibile. Infatti deve tornare dove l'ha comprato e dargli 2 schiaffi, cioè sostanzialmente. Carlo da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. No, volevo dare qualche ritorno di realtà su una famiglia che gira per supermercati a Milano. Dica. I limoni nel 90% dei casi sono o spagnoli oppure dal Sud America. E raramente si trovano quelli italiani. Quando ci sono, per esempio quelli siciliani, buonissimi, costano il doppio. Certo, per le ragioni che diceva Mario Secchi prima. I pompelmi. I pompelmi sono o dalla Turchia, se ti va bene, da Israele. Sapete che esistono i pompelmi della Calabria? È difficilissimo trovare le cose. Possibile. Nei supermercati, però, come diceva la nostra ascoltatrice prima, nei supermercati si trovano made in Italy e tracciati. Maria Teresa da Pescara, buongiorno. Buongiorno. Dica. Niente, io volevo far giusto, ecco, tirare un attimo l'accento anche sulle scuole, perché io, una bambina, sono mamma di una bambina di 10 anni, quindi frequenta la quinta elementare. Sì. E ho notato che finora non è stata fatta veramente alcuna informazione alimentare, cultura alimentare. Chiaramente come materia manca, lo sappiamo benissimo, addirittura vedevo che il libro di scienze ha solo due pagine, realmente solo due pagine di cultura alimentare, ma viene anche tollerata all'interno delle scuole una colazione totalmente sbagliata, ho visto, è stata anche a mensa, quello tirata via dalla mensa perché era intollerabile la situazione, anche certo. A mensa una situazione assurda, non viene insegnato, quando insegnare ai bambini sarebbe anche l'occasione paradossalmente per insegnare anche agli adulti. Ma avendo rinnegato una cultura di origine contadina per diventare, come diceva Pietrangelo, tutti solo cittadini e quindi consumatori, invece di tenere insieme le due anime, una la si è considerata di serie B e la si è dimenticata. 800240024, numero verde, 349-238-6666, l'SMS, pubblicità. Mix 24. Allegria! Nostalgia, nostalgia canaglia. Questo momento solenne della storia del quiz. Vogliamo sapere da lei, signora Buttafarro, come si chiama il 12° figlio maschio? Quale busta vuole, la 1, la 2 o la 3? Questa volta facciamo la numero 1. Incendio che non spegni mai. Allora, storia romana, sono 440.000 lire che vince. Lei ci deve dire, signora, da chi erano guidati i cartaginesi nel tentativo di riconquistare Panormo nel 250? Era Asdrubale il cartaginese e Cecilio Metello il romano. Esatto. Chi vuole partecipare alla nuova edizione del Rischia Tutto, e permettetemi in chiusura di dire il mio famoso motto, allegria! Allora, professor Giorgio Simonelli, docente di storia della televisione, giornalismo televisivo alla Cattolica di Milano, un nostro grande amico, buongiorno professore. Buongiorno a tutti. Allora, la nuova edizione c'è stata, le è piaciuto? Sì. Sì, mi è piaciuto, devo dire, la cosa più bella erano le strisce quotidiane che andavano in onda nella selezione dei concorrenti. Poi le due serate, diciamo che siccome non era una cosa facile, diciamo la verità, temevo molto il flop e temevo anche un po' la noia. Perché invece... il flop con quegli ospiti? Grandi varietà, più ospiti di così impossibile. Sì, però insomma portare gli italiani su un prodotto che è un prodotto di archeologia ormai, di molti anni fa, pensavo alla fuga degli italiani, pensavo che qualcuno potesse sintonizzare. Ecco, però professore, facciamo un'analisi un pochino più approfondita, sì, di questo programma. E intanto, vabbè, c'è stata una promozione colossale che è durata mesi, diciamo, di tutta la RAI, perché quella striscia quotidiana naturalmente faceva riferimento a questo appuntamento doppio che ci sarebbe stato. È la nuova televisione questa? Dunque, non è la nuova televisione, però non è neanche la nostalgia canaglia che qualcuno ha evocato. È un recupero archeologico e abbastanza filologico della vecchia televisione. Sì. Ed è secondo me un meccanismo anche virtuoso. Io so che lei è sotto sotto è d'accordo con me. Ci sono dei formati antichi. Non metta le mani avanti. Che possono essere rivitalizzati. Assolutamente. Non c'è bisogno di andare a cercare lontano, c'è bisogno di cercare nella storia della RAI e ovviamente poi adattare. Naturalmente noi addirittura compriamo, cioè noi, la RAI compra dei format che ha, e quindi giustamente c'è un problema. C'è il problema che il quiz, che è uno dei grandi spettacoli televisivi, sì, la televisione è nata attorno al quiz, è stato allontanato dalla prima serata. Ecco, io volevo farle una domanda su questo punto, professore. Il quiz in fondo rappresenta un ritorno a una qualche forma di televisione pedagogica, perché il quiz significa come minimo nozionismo, sì, come massimo passione, addirittura può essere cultura messa in un modo che comunque dà un valore aggiunto rispetto ai pacchi, alle buste, alle vittorie senza sforzo, diciamo, ma per pura fortuna. È così? Sì, è così, perché la storia del quiz è stata proprio questa involuzione Per cui ad un certo punto non c'era più nessun discorso sulla competenza, ma soltanto sulla casualità. Il culmine di questa curva in discesa è stata la storia dei fagioli, che tutti sanno, no? Dove non bisognava conoscere nulla, ma semplicemente azzeccare una risposta. Ora si sta tornando lentamente, è cominciata già da tempo, anche Passaparola era su questa strada. Verso i contenuti. Poi c'è un altro punto, c'è un altro punto che di secondo livello che ha, può avere un certo interesse. Le domande fatte sugli spezzoni del repertorio Rai, che sono il loro vero patrimonio, vediamo il successo di Te durante l'estate, ripropongono dentro un contesto di domanda, ripropongono il bello della televisione che c'è stata. Beh, sì, e quindi è un livello di spettacolo, un ulteriore livello di spettacolo, sì, quello. Sì, questo è anche un grande contenitore, appunto, perché appunto può contenere la storia, può contenere la lingua italiana, può contenere anche il varietà, il divertimento. Insomma, quindi, lo promuoviamo? Io lo promuovo, anzi vorrei... Ma lo promuove per dove? In prima serata su Rai 1 da settembre? Prima serata non necessariamente su Rai 1. Io credo che le reti debbano anche smettere un po' questa separazione, questa idea un po' precostituita, per cui una cosa, io penso che anche un bel quiz in prima serata su Rai 3, e giochiamoci poi a chi è più bravo. Non a te Mario è piaciuto? No, forse non l'hai visto? No, ho guardato perché ero curioso, poi a me le operazioni di recupero mi piacciono. Posso dire una cosa? Sì. È dai tempi di Omero che noi riscriviamo sempre la stessa storia, per cui perché no? Anzi. No. Quindi diciamo che in fondo il nuovo è il vecchio con le nuove tecnologie. Sì. Però anche con la capacità di rileggere il vecchio, non solo la tecnologia, ma anche lo sguardo deve essere diverso, anche l'atteggiamento. Grazie professore. Grazie a voi, saluti a tutti, complimenti per la trasmissione. Grazie. Anche questa l'abbiamo già sentita. E tu Pietrangelo che ne pensi? Che ne penso? Ne penso che il nuovo è senza dubbio il vecchio, infatti la 500 ha avuto successo, però appena rimetteranno in produzione la R4 sarà la sconfitta della 500, la qualità su tutto. Maggiolino, allora Maggiolino, trionfo. Quello non è un'utilitaria, quella è la macchina del popolo. La macchina del popolo. Senti Mario, Pietrangelo, che canzone c'è stamattina? Ecco. Stamattina un bel giorno di sole e però freddo, e siccome nel giorno di sole può capitare la pioggia, cade a proposito la pioggia nel giorno di sole, c'è sempre il contrasto, e in metropolitana era tutto un incontro di contrasti, perché c'era la calma seduta accanto alla confusione, il silenzio che si era messo vicino vicino alle parole, e gli occhi sbarrati che invece se ne stavano sognanti nel sonno in un'eternità per l'appunto immobile. Ha telefonato James Joyce, ha chiesto questo brano per la signora Rosselli con un messaggio: ce lo beviamo un bicchiere di pioggia? Un bicchiere di pioggia naturalmente di stagione, perché i nostri ascoltatori continuano a ritornare sul tema che se uno in fondo consumasse i prodotti di stagione, molti problemi della manipolazione delle rate alimentari che sono importate verrebbero meno. Non so se è vero, ma insomma chiedetevi da dove viene per esempio la Bresaola. Producono tutte in Italia? No. Producono tutte in Italia? No. Perché c'è eccesso di domanda, punto. E quindi viene da altri paesi stranieri quella carne là. Tanto va bene, ma vai con la tua bolla Mario. eco in cuffia, vabbè. Che cosa facciamo in Libia? Questi Spirit in the Sky, ma cosa facciamo dopo in Libia? L'incontro dei cinque grandi. Vabbè, non è che in realtà abbiano risolto niente. No. Siamo al punto che tante volte abbiamo detto qua, che prima dell'estate bisogna fare qualcosa. La prima cosa è ovviamente per tutti difendere le infrastrutture del petrolio. Il problema è che i libici cominciano ad attendersi anche un'altra cosa, cioè che facciamo con l'ISIS? Perché cioè, voi dovete immaginare la scena: tu ti metti là con delle truppe che stanno difendendo un'infrastruttura petrolifera, un terminal, tanto per dire, depositi e così via. Bene. E poi? Perché c'è un tipo di difesa attiva e c'è un tipo di difesa passiva. Fai operazioni anche per sgominare, per catturare i miliziani di ISIS? Boh, questo ancora non è chiaro. Si capisce tutto questo se leggiamo con più attenzione quello che dicono i libici. Per esempio su Libya Herald stamattina c'era secondo me un pezzo abbastanza interessante che dava la misura di tutte le incertezze. E ora, gli americani probabilmente si fermano a un appoggio navale, che però, questo è un altro problema, non ferma la partenza dei battelli. Certo. Perché li beccano in mare sostanzialmente, ma non ferma la partenza, per cui tu dovresti avere le truppe a terra per fare questo tipo di lavoro. E questo emergeva già ieri e in passato. Ma nell'accordo col premier libico sappiamo che, come era con Gheddafi, lui usava gli sbarchi per trattare il rubinetto. Trattare, perché il rubinetto. Quello poi è naturale. Il paese che sembrerebbe più interessato a fare, diciamo, un'operazione comprensiva è l'Italia. Questo va bene, secondo me. Cioè. Il tema è non farsi mettere in mezzo, come sempre, dagli inglesi e dai francesi. Non ritrovarsi in un piccolo, drammatico Vietnam. Esatto, non ritrovarsi, perché sai, è come le guerre sono come l'editoria. È facile entrare, è difficile uscire. Quindi, in genere quando esce hai già perso. Quindi secondo me siamo a un punto critico, perché siamo a fine aprile, maggio, e poi giugno è decisivo, perché a giugno può succedere di tutto, sbarchi, cose. E mi ho un sospetto, troppa calma dalle parti dell'ISIS. Sì, infatti, momento di stasi. Invece la calma noi non l'abbiamo avuta a Torino, perché ricordo che ieri abbiamo vinto il quinto scudetto di fila. No, non potevi però non dirlo. No, ma insomma, no, per carità, il prossimo lo vincerà un altro, però noi intanto abbiamo vinto il quinto di fila. Cinque. Va bene, Salamino! Partito unico! E poi dice che uno si butta Nazareno. Parla Pier Ferdinando Casini e dice: partito unico con Berlusconi e insieme sosteniamo Renzi. Che cos'è dunque? Allora, è il PPP, cioè dovrebbe essere questo, no? Cioè che è il PPP che chiama raccolta tutti i PP, cioè questo PPP è il Partito Popolare Europeo. Glielo mettiamo di sotto. Ecco, grazie. È l'unica possibilità, dice Pier Ferdinando, per Silvio di essere protagonista. Intervistato da Repubblica, Casini offre a Berlusconi questa pensata e dice: un moderato non può che sostenere Renzi. E ci mette il carico, diciamo una malizia. Quelli che plaudono a Davigo, chi sono? Sono Salvini e Meloni. Il discorso qual è? Anche se intanto Berlusconi piange, manco Matteo Renzi può dire di poter ridere, perché è impegnato in una marcia tutt'altro che trionfale contro i 5 Stelle, con la sinistra interna che lo boicotta, i costituzionalisti che costituzionano e lo combattono. Non riesce dunque a creare questo fronte moderato. Ma intanto com'è la situazione? Forza Italia è accreditata a un colpo di PP? Forza Italia è accreditata al 6%. Il partito di Pier Ferdinando Casini invece è accreditato, abbiamo fatto i calcoli stamattina, è stato laborioso, è stato insomma complicato, e allora è accreditato allo 0%. 0,0004%. No, però sono il 4%. Tu pensavi uno, no? No, 4. E però il Pepe mette in ambasce tutti i Pepe. Oh, giusto per memoria storica, Giovanni, Mario, giusto per memoria storica, io sono in piedi. A maggior ragione Giovanni, tu che la storia la fai. Allora, chi è Pier Ferdinando Casini? Chi è Pier Ferdinando Casini per Silvio Berlusconi? Chi è? Con tutti sti Pier mi confondo la Pierpappa. Allora, Pier Ferdinando, sento il cervello va in pappa e ti viene la Pierpappa. Ti viene in mente Pier. Allora, chi è lui? È uno dei due del famoso duo Bonnezza. Ve lo ricordate quando Berlusconi commentò? E l'altro dei quali, parlandone da vivo, è Gianfranco Fini. Oh, Casini, secondo il ragionamento di Casini, Angelino Alfano ha fatto meno danni al CAF di quanti gliene stiano facendo la Meloni e Salvini. A proposito, ho avuto modo di ascoltare l'incontro. Sapete chi ha incontrato? Chi? Questo è il dialogo tra Salvini e Donald Trump. Donald Trump che proprio poggia la sua mano sulle spalle di Salvini. Non c'è gara, ma no, anzi, la gara rientra forte, perché cosa resta di fedele? Cosa resta di solido? Cosa resta di granitico? Cosa resta di sicuro, di agevole, di maneggevole al CAV? Eccolo! Io garip e tu ten grip, se per caso dicono sbatte piede, fai a cazzè. Col Calippo non c'è gara! Grande buttafuoco col PPE, ti dice Elena da Napoli. Pubblicità! È sempre donna. Mix 24. Una notizia inquietante è giunta poco fa dall'Unione Sovietica. L'agenzia ufficiale TASS annuncia che un incidente ha avuto luogo in una centrale nucleare facendo delle vittime. Il disastro è avvenuto nella centrale nucleare di Chernobyl, 130 km a nord di Kiev, capitale della Repubblica Federata Sovietica dell'Ucraina, che ha 1,5 milioni di abitanti. Un forte vento che spirava verso nord ha spinto la gigantesca nube radioattiva verso i paesi della Scandinavia. Da quel tragico 26 aprile dell'86 sono passati 30 anni. Ucraina e Bielorussia sono ancora contaminate, case, ospedali, scuole, strade sono fermi a quel giorno, mentre le campagne sono diventate un laboratorio di ricerca scientifica. I droni fotografano villaggi e città fantasme. La vita ha abbandonato per sempre quella terra maledetta. Dentro la centrale, l'enorme e inquietante sarcofago che contiene le macerie del reattore numero 4 è diventato anche un monumento alla memoria di un disastro. Apocalisse a Chernobyl, la drammatica cronaca dei 60 minuti che hanno provocato l'esplosione del reattore e le domande che non hanno mai avuto risposta. Qui a Mix 24, il giallo della storia, dopo il giornale radio. Mario, c'è ancora una bolla. No, aspetta, prima della bolla, che è successo? Però, no, c'è una proposta molto interessante di un nostro ascoltatore che si chiama Ulisse e che dice, cioè propone alla UEFA, cioè l'organizzazione del calcio europeo, propone alla UEFA di affidare, anzi di assegnare alla Juventus dopo il 40° scudetto una Champions League. Mi sembra una buona idea, una Champions League di premio. Vai con la bolla. Scesi proprio indietro negli anni, vabbè, all the line di Toto, così, giusto per dare un sapore di un aroma antico alla nostra mattinata. Cosa fa l'FBI? Non che mi sia alzato chiedendomi questo stamattina presto, però ho letto una cosa molto curiosa, e cioè che un semplice cambio del regolamento del potere di investigazione del Federal Bureau of Investigation darà la possibilità all'agenzia americana di fatto di intercettare tutte le conversazioni telematiche automatiche su qualsiasi computer in qualsiasi parte del mondo. Questo fatto è andato un po' sotto traccia, nascosto dalla tensione, dalla disfida che c'è stata tra Apple e l'FBI sul telefonino di San Bernardino, ma in realtà è molto importante perché estende i poteri di un'altra agenzia americana di fatto sul controllo globale delle comunicazioni. Secondo me è da tenere d'occhio, anche perché certo, tra Europa e Stati Uniti è in corso una contesa molto grossa su questi temi che riguardano la privacy e la libertà dei cittadini, parliamo, e naturalmente anche la sicurezza. Certo. È strano come l'Europa non si doti di un suo sistema su queste cose qua, e gli stati nazionali procedono in ordine sparso. Ci chiedono molti ascoltatori che telefonano, che scrivono, il nome del coltivatore di albicocche di Scillato. Il suo nome è Alberto Battaglia, Scillato, 70 chilometri da Palermo. Adesso con il professor Roberto Bernabei, come sempre, commentiamo le più importanti notizie di medicina apparse sulle riviste top del mondo. Medicina, le frontiere della ricerca. Annals of Internal Medicine, febbraio 2016. Il cortisone nel trattamento acuto di gotta. L'attacco acuto di gotta, con il dolore spesso impossibile, in genere alle estremità inferiori, è evento sempre più infrequente perché di fatto il consumo di alimenti proteici, segnatamente carne, è certamente inferiore oggi rispetto a anni fa. E infatti la gotta era una malattia tipica, se volete, del Rinascimento, però ancora oggi capita, e come trattarla è comunque un problema. Questi ricercatori hanno voluto vedere su un gruppo di oltre 400 pazienti con un attacco acuto di gotta che si presentavano in un pronto soccorso se valeva la pena trattarlo come si fa normalmente, con un antiflogistico non steroideo o direttamente con il cortisone, per vedere cos'è che funziona. Hanno sottoposto questi 400 e passa pazienti con la gotta ha delle scale che misuravano la qualità del dolore e la quantità del dolore, per vedere quale dei due gruppi di farmaci, antiflogistici non steroidei o cortisonici, funzionasse meglio. E l'hanno fatto nelle prime due ore dopo il ricovero in pronto soccorso e dopo un paio di settimane. Bene, non c'è differenza tra i due composti, funzionano bene tutte e due, sia l'antiflogistico non steroideo che il cortisone. Solo c'è una differenza che è sostanziale, ed è il motivo per cui vi ho raccontato questo studio, che il cortisone in acuto dà meno effetti collaterali degli antiflogistici non steroidei. Come sapete, danno spesso problemi di stomaco, problemi gastrici. Quindi si conclude che il cortisone è efficace e sicuro nell'attacco acuto di gotta. E per chiudere, Gloria Guerrera, cosa ci dedica oggi? Oggi una canzone per tutti quegli uomini che perdono la preziosa occasione di stare zitti. Chiara De Lo Jacobo, Introverso. È tutto stabile e meccanico, dentro questo ingranaggio cosmico, che lo ritrovo tra le costole, a controllare ogni mio battito. Non trovo un percorso che mi stia bene. Giusto posto, ma quando ti ricapita di stare